La mia città porto nel cuore il suo bacione, dall'antichità lei è la città del fiore, dolce di nuovo, nuova idea dell'amore, ti dedico le note di questa mia canzone, tra corti e canti, bottegai e commercianti, passando per i ponti di turisti ce n'è tanti, grandi cambiamenti ma molti gli scontenti, il traffico di giorno non corre, punto avanti, yo man, oh, che c'è? La mia città non è nella geografia del rap, te lo dico onestamente, che a volte lei è un po' finta, vuoi sapere il perché? Non è grande né piccina, con suoi modi da regina, sempre gonfia di autostima, capricciosa che si ostina, chi la vuole in cartolina, chi dietro una vetrina, io le dedico una rima. Firenze, tu sei divina. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Tu che sei la mia Firenze, la mia Firenze. Che sei? Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Tu che sei la mia Firenze, la mia Firenze. Chi sei? Sei, sei, sei. A parte la bellezza del calcio storico, dei tuoi monumenti, della tua cultura, cara Firenze, volevo dirti due cose. Lascio, ci a spasso un po' qua e là. Tipico modo di parlare della mia città, Firenze. Con le sue bambine, con le sue colline, con gli abituali giri ai parchi e le cascine. Mia una sorta di odio amore, da te voglio evadere, poi non vedo l'ora di tornare. Inevitabili ogni lunedì mattina, discorsi e discussioni sulla Fiorentina. Oe, perno incanta sotto i sette punti nella notte, guanti gli estasiati dalla città dell'arte. Nascondi la tua anima agli occhi del turismo, fiore del mondo e culla del rinascimento. Il centro ora è tutto in mano agli stranieri e via, il vero Fiorentino adesso è in periferia. Tra scanzonare, borbottare, malcontento generale, non posso criticare ma tu non me la toccare. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Tu che sei la mia Firenze, la mia Firenze. Chi sei? Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Tu che sei la mia Firenze, la mia Firenze. Chi sei? C'è una Firenze che brucia dentro me. Yeah.